Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Quarta puntata. L'ex bambina prodigio ha smesso di rispondere alle mie mail. Le ultime tre non hanno avuto repliche. Deve avermi preso per una specie di maniaco, anche se i riferimenti al suo passato sono esatti, particolari che ricordo con esattezza e che il suo blog non cita. Deve essere confusa, addirittura impaurita. Forse è solo riaperto una ferita che pensava cicatrizzata. Ho cominciato a scrivere parole violente su cose e persone che detesto. Considerazioni malinconiche su giovani atleti promettenti la cui progressione si era arrestata. Noiosi dettagli sulla mia preparazione atletica. Le ho scaricato tonnellate di egocentrismo agonistico. Rileggendole nella posta in uscita mi sono parse ossessive e paranoiche. Il mio istinto mi trascina a fare mosse sbagliate con le persone a cui tengo. Mi sarebbe piaciuto correre con lei nella città in cui abita, lungo il greto del fiume, quello delle foto panoramiche. Per una volta senza l'ansia del cronometro. Clara ha dovuto cambiare città e fiume. Ha reciso la prima parte della sua vita. Ha lavorato pazientemente per rendersi impermeabile al dolore. Mi sarebbe piaciuto parlare con lei della sua nuova vita, delle sue passioni, di letteratura, poesia. La mia ignoranza e la mia disponibilità l'avrebbero intenerita. Mail from Claudio Seregni, tu Arlati Clara. Ciao Clara. Spero che la tua giornata sia stata soddisfacente, almeno quanto la mia. So che hai repulsione per tutto ciò che è cronometro. Per te oggi correre è solo evasione, libertà, spazi dove ritrovi una parte di te che hai relegato in fondo al cervello, per ragioni che ignoro e rispetto. Attenta, Clara, ogni rimozione è castrazione, una forma di violenza. Il passato a volte ci rincorre, sa mordere, proprio quando siamo certi di aver adottato buoni surrogati. Beh, comunque di cronometro devo parlare. Mi sono riscaldato 40 minuti correndo sull'anello erboso esterno alla pista. 4 minuti a chilometro, probabilmente. 15 minuti di stretching e 10 allunghi di 100 metri. Mi sono subito reso conto che le gambe giravano. Il menù prevedeva un 3.000 in 9 minuti, un 2.000 in 5.50 e 2.000 in 2.50. Ho corso in assoluta scioltezza il 3.000 e il 2.000 e mi sono concesso il primo 1.000 a 2.48 per chiudere con un 2.42. Alcuni allievi mi tiravano dei 400 a turno, ma la mia forza era tale che li affiancavo e superavo, rendendo superfluo il loro aiuto. Tra una serie e l'altra un minuto di recupero, un minuto di pensieri positivi, di determinazione. Nessuno di questi cattivi pensieri di cui ti parlavo tempo fa. È stato il miglior lavoro della mia vita. Roberto ha fatto l'allenatore che rimprovera l'allievo troppo irruente, secondo Copione. Ma mi è sembrato strano, sembrava triste. Da un po' non mi rompe le scatole con i suoi mitici anni 70. I pionieri delle maratone, le prime gare su strada all'estero, precursori di tutto. Questo Franco Fava, di cui mi parlo ossessivamente, il fondista tachicardico, atleta difficile da gestire. Nel 77 in Italia i giovani tiravano Molotov. Lui faceva il ribelle girando il mondo senza la benedizione della federazione. Corre i 10.000 in 27.42 a Londra. Poi sbaglia gli appuntamenti importanti, come gli africani. Un epico perdente, almeno per Roberto che non è mai riuscito a batterlo. Ma essere battuti da lui era un onore. Roberto dice che è il penultimo atleta arrivato a livelli internazionali senza sostegni farmacologici. L'ultimo è stato un atleta spezzino alcuni anni dopo, il più grande talento nato in questo paese. Ma lui e il suo allenatore avevano rifiutato l'aiuto dell'equipe del dottor... Vinse solo un misero titolo europeo. Roberto mi ha guardato strano dopo l'ultimo 1.000. Forse ha intuito che non ho intenzione di diventare un atleta di seconda schiera dietro i fuori classe. Avrebbe preferito un perdente della sua razza e un fazzoletto per due da insudiciare con lacrime di rimpianto. Io voglio percorrere anche l'ultimo chilometro, quello che separa la mediocrità dall'eccellenza. A fine allenamento ho parlato con Giulio. È il momento di fare il salto di qualità, di cogliere l'attimo. Pechino 2008. Le date sembrano sempre lontane, ma il tempo passa in fretta. Un atleta è una minuscola particella di infinito. Martedì mi farò tatuare Pechino in cinese sul deltoide. È un'idea che ho preso da certi velocisti americani. Giulio ha detto che se la federazione mi inserisce nel club olimpico tutto sarà più facile e lui dice di avere i contatti giusti. Nessun controllo ematico a sorpresa. Programma farmacologico gestito dalla seconda generazione di medici sportivi. Allievi diretti e indiretti di... E... Con Giulio stiamo riflettendo su alcune cose. Da 3 settimane uso un prodotto. Una piccola cosa, non la solita B12. Così, giusto per vedere la reazione del mio fisico. E oggi si è visto. La vita è fatta di scelte. Non mi interessa il concetto di destino. Roberto non sa nulla. A meno che l'atteggiamento di oggi non fosse dovuto a un ragionevole dubbio di fronte alla mia efficienza fisica. Non è il momento delle paranoie. Giochi con la sua etica. Che si masturbi da solo e mi lasci in pace. Ma di te non abbiamo mai parlato. Esattamente cosa ti è successo? Ti hanno fatto andare fuori giri con il giochino dell'autoemotrasfusione? Ops, scusa, mi è scappata la domanda indiscreta. Non devi rispondermi. Comunque, quella è archeologia. I nuotatori svenivano negli spogliatoi. I mezzofondisti con le difese immunitarie azzerate morivano per un'antitetanica. Altri tempi. Il loro sacrificio è servito al progresso della scienza. Lo so, sembro cinico, ma questo mondo di merda non l'ho fatto io. Eppure mi affascina l'idea che dei medici abbiano potuto escogitare una soluzione così fantasiosa e tutto sommato semplice e naturale. E poi che c'era di male? Il sangue che prelevavano era quello dell'atleta stesso, prima degli allenamenti sfibranti che precedevano le grandi competizioni. Nessuna sostanza estranea. Il momento della trasfusione doveva essere fantastico. Insomma, cazzo, era roba tua. Il sangue era fresco, senza tossine, ricco, ossigenato. Ok, adesso inizio ad annoiarti. A volte mi sfiora l'idea di incontrarti. Sara è di là in salotto, addormentata a morte davanti a un programma di approfondimento di seconda serata. È possibile amare una creatura simile? Ciao e scusa il delirio. Ti prego, scrivimi. C.S. Gaudenti Fabio, classe 1981, non aveva promesso proprio niente. Non una vena in vista, né fibre muscolari intarsiate addosso, liquidi e grassi in eccesso. Lo ricordo fin dalla categoria cadetti. In campestre si correva sui 3 chilometri. Partiva sempre troppo veloce. Poi seguiva puntuale un calo costante del ritmo. Era fastidioso trovarselo a sgomitare accanto nelle prime curve. Veniva voglia di insultarlo, di gridargli in faccia: rallenta, coglione, che poi ti schianti, guardati indietro, ragiona, fa una gara decente, regolare, una, poi ritirati per sempre. Mai nei primi 10 alle fasi regionali dei campionati di società, dei saparasido ai nazionali, reperibile nelle classifiche solo dopo minuziose ricerche, molto in basso. I dirigenti della sua società prenotavano l'albergo a Roma anche per lui, solo per premiare il suo impegno. Finali nazionali su pista, neanche a parlarne. I minimi cronometrici imposti erano sulla luna. I suoi tentativi di raggiungere questi tempi erano commoventi, quasi leggendari. Gareggiava tantissimo, dagli 800 ai 5000 metri, imponendosi passaggi velletari che spesso lo portavano a ritiri amari o a finire male, come un cavallo che ha rotto il trotto. Le sue giustificazioni erano tediose e prive di fantasia. Lamentava contratture muscolari, ritardi nella preparazione. Si diceva corresse 2 volte al giorno. La prima seduta di allenamento iniziava alle 6 di mattina. L'assoluta mancanza di talento ci faceva tacere per un vago senso di pietà. Non ci prendevamo nemmeno il tempo dello scherno. Durante le fasi di defaticamento le sue parole erano solo noia. Eravamo concentrati sul nostro futuro. Il suo era segnato dalla mediocrità. L'allenatore non aveva nulla da rimproverargli e da rimproverarsi, anche se nel dopogara mettevano in scena scontati botte e risposta. I 120 chilometri settimanali gli intossicavano i muscoli di tossine che nemmeno le sedute di fisioterapia pagate dalla famiglia riuscivano a smaltire. Eppure quest'anno, giunti ambedue alla categoria assoluta in una corsa su strada a Squinzano, lo avevo battuto di poco, solo in volata. La cosa mi infastidiva. La coda dell'occhio percepiva un'ombra scura poco dietro, troppo vicina e minacciosa. Avevo tentato fin dal primo metro di staccarmelo di dosso, anche se ero certo che sarebbe scoppiato, come era successo negli anni giovanili. Al circuito non era stato invitato nessun atleta di colore. Difficile stabilire se ci fosse una relazione tra questa scelta degli organizzatori e i risultati delle recenti elezioni comunali. La lista della Lega Nord aveva preso il 54% dei voti. Tuttavia, una curiosa enfasi aveva colto l'assessore allo sport durante la premiazione. Aveva teorizzato concetti che in altre stagioni avrebbero destato imbarazzo. Un mormorio di consenso aveva elettrizzato la piazza a basso voltaggio. Tenevo fisso lo sguardo sul nuovo avversario, indeciso se scambiare qualche parola sul palco delle premiazioni. Di norma commento le fasi della gara solo con atleti di cui riconosco il valore e la pericolosità. A guardarlo bene pareva dimagrito, asciugato. In gergo si sarebbe detto tirato. Subito dopo l'arrivo avevo notato le striature muscolari delle spalle, evidenziate dalla patina di sudore. Due buchi avevano risucchiato le guance. Le vene percorrevano polpacci e cosce depilate. Ero rimasto ipnotizzato da quegli occhi scuri che non si posavano su nulla, se non per frazioni di secondo. Un nervosismo cosciente di una nuova efficienza fisica. Conoscevo quella sensazione di onnipotente impazienza. Propositi per le prossime gare, curiosità per le evoluzioni cronometriche degli allenamenti. Non ci eravamo detti nulla. Avrei ridefinito quanto prima le gerarchie. Guardavo altrove, ascoltavo in silenzio le ardite teorie dell'assessore allo sport sulle razze che avevano saputo evolversi a livello sociale e quelle che rincorrevano con ferocia pericolosa per divorare gli avanzi. Varianti alle prove ripetute e lunghe. Per l'atleta evoluto si usano talvolta prove lunghe a intensità elevata, sensibilmente superiore ai ritmi di gara, con recuperi relativamente brevi per esaltare le caratteristiche psicologiche di volitività e capacità di sofferenza. Tali prove, che qualificano al massimo la condizione ma risultano molto dispendiose sotto il profilo fisiologico e nervoso, vengono effettuate a debita distanza, 15-20 giorni, dall'appuntamento principale. Tale lavoro non rientra in uno schema abituale e va lasciato alla sensibilità dell'allenatore e degli atleti. Chierono. Si chiamano tutti così. Ne ricordo almeno una decina con questo nome o cognome arrivati alla celebrità mondiale dell'atletica. O sono tutti cugini, o la cosa riguarda la tribù di appartenenza. Un paio di stagioni per consumarsi il fisico con due gare al giorno, poi tornano in Kenya, sposano una cugina, comprano 100 pecore e credono di essere ricchi. Questo deve essere rimasto in Italia. Non ha guadagnato abbastanza per le 100 pecore. Il Kenya è un paese che a noi europei ispira fiducia anche per l'umiltà e il valore dei suoi ambasciatori atletici. In realtà è una nazione molto arretrata, sempre sul filo del conflitto etnico. Roberto, per affiancarmi negli allenamenti specifici, mi ha trovato un cherono, uno di quelli che correvano i meeting di prima schiera all'inizio degli anni 90. Me lo ha presentato sul cancello della pista comunale. Cherono mi mastica in faccia qualche frase di italo-inglese, pochi termini che in un tempo remoto ha usato per rispondere alle domande dei telecronisti sportivi e alle indicazioni di allenatori e manager. Io non conosco l'inglese, rimango impassibile, sorrido e cerco di guadagnare gli spogliatoi. Pare di legno, dita lunghissime, affusolate, denti bianchi, enormi. Roberto dice che Cherono non è un Cherono qualunque. Questo è un monumento vivente, affatto da lepre al primo atleta che ha corso i 10.000 metri sotto i 27 minuti. Aveva guidato il gruppo di atleti di colore per più di metà gara, poi, stroncato, aveva ceduto la prima corsia. Aveva finito doppiato quasi due volte e festeggiato dal primatista avvolto in una bandiera keniana. Magari Roberto si sbaglia, era un altro Cherono, vabbè, è lo stesso. Dice che è una specie di metronomo. Gli risparmio il luogo comune sul senso del ritmo che avrebbero i neri. Dovrei essere orgoglioso di tirare le ripetute con lui. Lo pensa e non lo dice. Faccio un movimento di assenso con il capo, oramai ci leggiamo nel cervello come le coppie rassegnate alla convivenza. Cherono ride, stringe il pugno. Dovrei accartocciarlo nel mio palmo, una gestualità che mi ricorda l'infanzia. Poi parte con una corsa skip a ginocchia alte e leggero avanzamento. E io dietro, senza pensare. Il cervello brucia grassi. Ho bisogno di tutte le risorse che può offrire il mio fisico, senza dispersioni o sprechi. Per iniziare la danza, stasera ho solo 50 minuti di media e una piccola progressione finale. Il mio Cherono è un vecchio leone classe 1968, un principe decaduto, un'icona che brilla di luce sfocata. In Europa merita ancora qualche ingaggio, ma gli africani di ultima generazione fanno paura e non lasciano nemmeno gli avanzi. La scorsa estate, in un 10.000 in Olanda, tutti i 19 partenti hanno chiuso sotto i 28 minuti, 8 etiopi e 3 keniani, ai primi 11 posti. Il quinto ha chiuso in 26.52. Fuori la notte grida ancora, artificiale, non si placa mai. E io devo dormire dopo l'iniezione. Auto, motorini, voci, lingue straniere, nell'aria gas di scarico e odore di pizza da asporto. Le pizze da asporto lasciano un fetore inconfondibile. Deve essere per via di certa merda sintetica che usano nei forni al posto del legno. Allo stadio stasera c'è un'altra partita di beneficenza. Puttane di Stato contro agenti magnaccia, trasmessa in diretta televisiva. Aprirà la serata un cantante in odore di camorra. Oramai ne fanno una alla settimana. Ci possono andare anche le famiglie, nessun disordine tra ultras, fino ad ora almeno. La fiala sta tra una scatola di minestrone e un gelato allo yogurt. È per metà ricoperta di un sottile strato di ghiaccio. Ricorda quei bicchierini di limoncello che mi sbrigo a rifiutare in certi ristoranti. Un colpo preciso e voilà. Lo stantuffo della siringa succhia e fa una schiuma giallastra che si disperde dopo pochi secondi. Né intramuscolo né endovena, sottocutanea, sempre più difficile. La prima volta me l'ha fatta Giulio, eravamo in salotto da me come stasera. Sono balle, ha tenuto a precisare. Nessun ingrossamento osseo e i tumori vengono a tutti. Quando è il tempo, le nostre sfingi hanno origine genetica, il destino ci rincorre, ci dicono un sacco di bugie su queste cose. Però, se noti qualche ingrossamento ghiandolare o la formazione di cisti, interrompi tutto e chiamami. Non andare da un medico di base, non farti prendere dal panico. Giulio ha un progetto chiaro, un'utopia che pare disperata. Roberto è il suo compare, ma fatica a tenere il passo del boss. Di certo non ignora il lato farmacologico, ma innesca un delicato meccanismo di rimozione che gli inibisce i sensi di colpa e lo fa sembrare lo sbirro buono. Giulio lavora solo con atleti di razza bianca per portarli a livelli di eccellenza mondiale. Dice che si sta occupando di un progetto appoggiato dalla federazione. Alle prossime Olimpiadi arriveranno di sicuro le medaglie di atleti naturalizzati italiani, figli di immigrati, atleti di pelle scura, ma non sarà la stessa cosa. Andranno bene anche quelle per il medagliere, quel vitale elenco che apre i telegiornali nei giorni dei grandi eventi sportivi. La fila degli ori, quella degli argenti, quella dei bronzi, ma andranno addizionate con le medaglie di italiani veri. A volte mi sembra un matto. Non so se lavora davvero per la federazione, ma ho deciso di fidarmi. Sta di fatto che non ho avuto controlli ematici a sorpresa quest'inverno. Lo scorso anno un paio. Il medico del martedì e del giovedì non parla mai di denaro. È un giovane biochimico, un ricercatore all'Università di Milano. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.